Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di borsa, ma non tanto per come va la borsa, leggermente positiva, più 0,2%, ma parleremo della vicenda risanamento, ossia la società che fa capo all'immobiliarista Zunino, sospeso il titolo oggi e vedremo poi lunedì se verrà riammesso in contrattazione. E comunque l'operazione e l'intervento della magistratura getta un'ombra sulla sostenibilità finanziaria del gruppo, famoso tra le altre cose per avere realizzato il complesso immobiliare di Santa Giulia a Milano. Non solo di Zunino parleremo, però anche delle continue dichiarazioni sul tema pensioni. Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi dopo la puntata di ieri sulla decisione di innalzare l'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, portandola allo stesso livello di quello degli uomini. Ancora parleremo di mezzogiorno, perché continuano ad esserci rilanci sul dato di ieri dello Svimez, ve ne abbiamo parlato, è tornato 700.000 immigrati dal nord al sud negli ultimi 10 anni, ma soprattutto accuse e critiche di non fare abbastanza per le politiche del nostro mezzogiorno. Il tutto in una giornata in cui sono usciti anche dei dati di carattere economico italiano cosiddetti congiunturali, penso al fatturato dell'industria a maggio e anche alle previsioni diffuse oggi dalla congiuntura flash del centro studi Confindustria, e poi il rapporto Nomisma sui prezzi delle case. Devo dirvi subito che nei primi 6 mesi del 2009 i prezzi sono scesi del 2,5%, per cui che sommato almeno 1% di tutto il 2008 fa un meno 3,5%. Praticamente il 2,5%, scusatemi, per cento su base anno si traduce in un meno 3,5%. Non è un calo, cioè un calo atteso, ma non si può certo parlare di scivolone né men che meno di crollo del mercato immobiliare in Italia, e lo conferma appunto anche il centro studi Nomisma. Calano anche i prezzi degli uffici e dei negozi, indenni invece i box auto, anche perché quelli sono sempre richiestissimi. 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo subito con le notizie in breve. La borsa, si diceva, più 0,25, il miglior titolo Fondiaria SAI più 2,7, Prismian più 2,3, A2A più 2% come Atlantia, Monte dei Paschi più 1,80, Terna più 1,5, Fiat di nuovo in crescita. Un punto percentuale, vale 7,71 euro il titolo del lingotto adesso, e lo 0,9 quello guadagna anche Autogrill, che si riporta sopra i 6 euro per azione. Italcementi più 0,80 come Alleanza, Ubibanca e Generali. Pronto opposto, Mediolanum perde l'1,4, Campari l'1,2 come le Cire, poi il Banco Popolare, Intesa San Paolo, ma anche Mediaset perdono lo 0,7%. Finmeccanica meno 0,6%, come sentite dalle variazioni percentuali la giornata di borsa è abbastanza tranquilla oggi e non si prevedono grossi scossoni, nel senso che poi Parigi guadagna lo 0,6%, Francoforte lo 0,4%, Londra la migliore più 0,85%, a fronte però di un'America che perde pochino, qualcosina, meno 0,14% il Dow Jones, e il Nasdaq meno 0,4%. Euro su dollaro 1,41, anche qui nessuna notizia al fronte valutario. Andiamo avanti con le altre notizie. Il petrolio sta rialzando di giorno in giorno la testa, però io ci metterei la firma per ora ad avere un petrolio a $63 al barile, e infatti è a 63 oggi. Per quello che riguarda invece i conti americani, iniziano a esserci i primi bilanci positivi delle grandi banche d'affari americane. Allora, Bank of America, primi 3 mesi dell'anno, utile netto di 3 miliardi e 200 milioni di dollari. Citigroup, anche qui, profitti netti del secondo trimestre hanno raggiunto i 4 1,3 miliardi di dollari. Comprende però l'utile anche il guadagno dovuto, guadagno pari a 6 miliardi e 7 dovuto alla vendita della divisione Smith Barney a Morgan Stanley. Dagli Stati Uniti all'Italia, si diceva, il fatturato della nostra impresa a maggio, dato era atteso, purtroppo è confermato il calo molto forte anche a maggio, meno 25% il fatturato, meno 31% gli ordinativi rispetto a un anno prima. Se si guarda invece al mese di aprile, allora il fatturato continua a calare, meno 1,1%, però gli ordinativi hanno segnato un più 0,4%, un timidissimo più, ma almeno il più c'è. E poi pesa, come spesso vediamo in questi mesi, in questi dati, soprattutto la il settore, diciamo, automotive, il settore delle quattro ruote, perché l'industria degli autoveicoli è quella che continua a trascinare verso il basso l'andamento del fatturato, meno 29,5%, infatti ordinativi meno 40%. E anche alla luce di questi dati il Centro Studi Confindustria oggi parla di un recupero dell'attività manifatturiera, cioè di segnali di recupero dell'attività manifatturiera, ma in ordine sparso e a livelli molto bassi, quindi diciamo si sta stabilizzando l'attività come valore, non scende, il recupero invece è ancora molto molto a macchia di leopardo e con, diciamo, con un'intensità molto bassa, tant'è che poi la Confindustria attraverso il Centro Studi aggiunge la cassa integrazione a giugno farà un più 6,8%, si andrà verso un record di cassa integrazione nel 2009, record storico, cioè 839 miliardi contro il monte, quanto monte ore, superando il picco del 1984 quando fu di 812 miliardi. E continua il Centro Studi Confindustria con la recessione, dall'inizio della recessione sono stati persi in Italia 200.000 posti di lavoro. Un calo comunque inferiore ai 500.000 posti di lavoro a tempo pieno indicati dai dati della contabilità nazionale. Per quello che riguarda poi altri elementi, sempre in tema di imprese, resta alta, segnala il Centro Studi di Confindustria, la quota di imprese che non ottiene credito bancario, 7,5% a maggio, prestiti stabili mese su mese ma in calo rispetto anno su anno. Per quello che riguarda i prezzi delle abitazioni, si occupa anche di questo oggi il Centro Studi Confindustria, meno 9% nel 2009 i prezzi complessivi, questa è la stima, e le transazioni saranno in calo, cioè quello a cui si assista nel mercato immobiliare è proprio non tanto una discesa dei prezzi del mattone quanto una discesa del numero di compravendite, meno 20% secondo Confindustria. E di nomins, ma abbiamo detto, nei primi sei mesi dell'anno meno 2,5% l'andamento dei prezzi degli immobili, uffici meno 2,3%, negozi meno 1,7% e appunto i box auto invece indenni, un investimento sicuro. Pubblica amministrazione, così poi ci spostiamo alle pensioni, ai temi del lavoro, pensioni e sud. Allora, oggi il ministro Brunetta ha presentato i dati a un anno di distanza dall'avvio dell'operazione antifannulloni, la ricorderete tutti. Le assenze per malattia nella pubblica amministrazione hanno registrato un calo del 38%. Questo può voler dire due cose, o che c'è stato un miglioramento nelle condizioni di salute complessive dei dipendenti della pubblica amministrazione, oppure che l'effetto deterrente delle misure annunciate dal ministro Brunetta c'è stato, o magari le due cose assieme, le misure di Brunetta e uno si è sentito anche un po' meglio. Sono 14 milioni di giornate in più di lavoro per i cittadini, sentiamo Brunetta. Questo primo anno ci consente di fare un ragionamento medio, in un anno, giugno-giugno, abbiamo avuto una riduzione del 38%. Se questo valore percentuale noi lo proiettiamo con qualche stima all'intero universo, facciamo diventare questo meno 38% di assenze circa 14 milioni di giornate lavorative in più. Quindi vuol dire che in questo anno la pubblica amministrazione ha offerto ai cittadini 14 milioni di giornate lavorative in più. Questo rappresenta un dato eclatante. E ancora sono stati pubblicati, saranno disponibili online nei prossimi mesi i curricula, gli stipendi, i numeri di telefono, gli indirizzi email di tutti i 190.000 dirigenti della pubblica amministrazione, un'operazione trasparenza per sapere chi sono, quanto guadagnano e anche eventualmente quanto sono bravi. È scattato infatti l'obbligo per legge per la pubblica amministrazione di rendere pubblici i dati relativi appunto alla dirigenza, ai tassi di assenza e di presenza del personale. È un'operazione che uno può vedere come vuole, però ricordo che insomma nel privato queste cose di fatto già avvengono, ci sono uffici preposti appunto a controllare questo. Lo prevede comunque la legge 69 del 2009. I contenuti li ha ricordati oggi sempre il ministro Brunetta. C'è l'obbligo di pubblicare per tutte le amministrazioni pubbliche tutti i dati sui dirigenti, curriculum vitae, gli stipendi, i numeri di telefono dell'ufficio, l'email, i dati sulle assenze del comparto e anche sulle presenze. Quello che noi abbiamo fatto sulle assenze volontariamente, d'ora in poi viene fatto per legge. Questo per tutti i 190.000 dirigenti pubblici, tra i quali 3.800 appartenenti al comparto dei ministeri, 15.000 regioni ed enti locali, e questa forse è la cosa più bella, 137.000 al comparto sanità, i medici. E al 349-238-6666 stanno già arrivando i messaggi. Noi adesso però ci occupiamo di previdenza, quindi restiamo nel mondo del pubblico impiego, perché appunto l'emendamento che già ieri abbiamo commentato nel decreto anticrisi in materia previdenziale, lo ha presentato mercoledì il governo, prevede un aumento graduale dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego a partire dal prossimo anno. Fa seguito a una sentenza della Corte di Giustizia Europea che diceva, attenzione, in seguito a un ricorso, dovete portare l'età delle donne, l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a livello di quella degli uomini. Ricordo, prima di iniziare a ragionare del tema, che in Italia le donne vanno in pensione in media a 57 anni, un anno prima degli uomini. In tutti gli altri paesi europei, 58 in Francia, 59 in Olanda, 58 in Grecia, 60 in Finlandia, 59 in Spagna, la media, 60 in Danimarca, 61 in Irlanda, 63 in Svezia. Poi è chiaro che da questi paesi restano le diversità, per cui se nei paesi scandinavi l'età in cui vanno in pensione uomini e donne è simile, in Portogallo è 61 per le donne e 64 per gli uomini, in Spagna 59 per le donne e 62 per gli uomini. Comunque, cioè, la tendenza è oggettivamente questa. Ne parliamo con la professoressa Elsa Fornero, che insegna economia politica all'Università di Torino ed è uno dei massimi esperti di sistemi previdenziali in Italia. Buonasera professoressa. Buonasera a lei e a tutti. Allora, lei oltre che essere uno dei massimi esperti di sistemi previdenziali è anche palesemente donna, quindi diciamo, ci serve nel doppio ruolo. Iniziamo con la norma, perché molti hanno obiettato, però possiamo ricordare che questa norma recepisce una sentenza della Corte di Giustizia europea. Vorrei sapere un primo commento secco, se le piace o no. Sì, mi piace perché è un richiamo forte al principio della parità. La Corte europea ha ragionato che il sistema previdenziale dei pubblici dipendenti è un aspetto della loro vita lavorativa e quindi se si tratta di lavoro in Europa vige la parità e allora la parità deve valere anche in Italia e questo è il richiamo della Corte con una sanzione anche forte se l'Italia non ottempera. Quindi è giusto. È però parziale, perché uno si deve domandare perché le dipendenti pubbliche sì e quelle private no. E questa è una delle obiezioni che abbiamo sentito più frequentemente in questi giorni. Andiamo però con ordine. Secondo lei il fatto che riguardi solo le dipendenti pubbliche, non le dipendenti private, rischia di poi essere anche un ostacolo futuro, cioè di portare dei ricorsi? Ma io credo che qui si tratti più che altro di un'operazione politica, E cioè il governo dovrebbe prendere questa occasione, che è, come ho detto prima, un forte richiamo dell'Unione Europea all'ottemperanza di un principio di eguaglianza, e applicarlo nella sua interezza. E la sua interezza vuol dire sia il settore pubblico sia il settore privato. Non abbiamo in questo un imperativo europeo, non ce lo chiede l'Europa, però ce lo chiede un principio di eguaglianza, e non si capisce perché, per esempio, una dipendente di banca debba poter andare in pensione prima di una dipendente pubblica. Non c'è nessuna ragione sostanziale, anche se è il pronunciamento della Corte è limitato alle dipendenti pubbliche. Ecco, sì, vale la pena ricordare che la Corte di Giustizia si è pronunciata sulle dipendenti pubbliche perché questo le è stato richiesto, professoressa. Certo. Non certo. Perché le dicesse che le dipendenti pubbliche devono lavorare un anno in più, ma perché è stato chiesto che cosa ne pensava, detto in maniera un po' prosaica. Esatto, il ricorso era sulle dipendenti pubbliche e su questo si è espresso. La Corte si pronuncia sul ricorso che le è stato presentato. In questo ricorso ha ravvisato una discriminazione e quindi ha deciso che la discriminazione andava terminata, e altrimenti c'è una sanzione. Ma non è che abbia detto questo non vale per le dipendenti private. Questo è un'altra questione che riguarda, come ho detto prima, lo Stato italiano, e riguarda casomai il governo, che è ovvio che non può limitarsi a fare una misura sui pubblici dipendenti, perché altrimenti sarebbe violata una parità sostanziale, anche se l'Europa e la Corte europea non ce lo chiede. E quindi è probabile, insomma, a meno che si debba anche mettere mano a un'equiparazione per non creare questa disparità tra mansioni identiche. Pensiamo, non so, a una classica mansione amministrativa, impiegatizia, pressoché identiche, solo che se svolta nel settore pubblico si va in pensione un anno più tardi rispetto alla stessa mansione svolta nel settore privato. È chiaro che c'è un principio di discriminazione che probabilmente andrà sanato. Ma fermo restando che lei ha chiarito molto bene che è d'accordo con la sentenza e quindi con l'applicazione del governo italiano, e anzi vorrebbe estendere al settore privato, veniamo alle obiezioni più di carattere concettuale. Si è detto, e lo scrivono anche alcune ascoltatrici al 349-238-6666, equiparate l'età della pensione tra donne e uomini, non tenete conto del fatto che durante la sua vita lavorativa una donna sia anche madre spesso, e su di lei venga tuttora scaricato, inutile nascondersi dietro un dito, la maggior parte del lavoro, degli oneri legati alla famiglia, all'accudimento dei figli, ai sacrifici, a quant'altro, per cui volete equiparare l'età della pensione a profili di vita che in realtà restano ancora molto diversi. Questo è il male vero, cioè il male vero è il fatto che in Italia la parità non sia un fatto normale della vita che più o meno tutti hanno in testa e che tutti accettano come una quotidianità, ecco. Invece qui in Italia si parla ancora tanto di parità, si fanno tantissimi convegni, ma siamo sempre agli ultimi posti in Europa. Parlo della parità sul lavoro, e la parità sul lavoro vuol dire che noi dobbiamo realizzarla con misure che riguardano il mercato del lavoro. Adottare invece la logica siete discriminate sul mercato del lavoro e quindi vi diamo una piccola compensazione sulle pensioni è controproducente, perché finisce per aggravare il male originario. Quello della disparità nell'età di pensionamento era esattamente un contentino. Accettare il contentino vuol dire accettare di mantenere la discriminazione sul mercato del lavoro. Non è accettabile che questo accada oggi, quando altri paesi, le donne fanno figli in tutto il mondo, in tutta Europa in particolare, magari pochi, ma comunque più che non in Italia, e però il lavoro delle donne altrove è considerato un fatto normale della vita, ripeto, un fatto normale della vita, non qualcosa di cui stupirsi e tantomeno qualcosa per cui combattere. Quindi, se ho ben capito, lei dice in definitiva che qualunque compensazione, come poteva essere appunto permettere alle donne di andare in pensione, e può essere nel settore privato di andare in pensione un anno prima, è il riconoscimento di una disuguaglianza precedente. Cioè io ti do un bonus, una compensazione, un vantaggio perché riconosco che di fatto tu sei discriminata. Sì, lo chiamerei addirittura un contentino, la politica sì. Del contentino, è la politica di chi dice vabbè, ti continuo a trattare in maniera diversa, però poi ti do la caramellina. Ecco, questo no. Allora, fra l'altro le donne vivono più a lungo e quindi il fatto che ci sia l'uguaglianza nell'età comunque dà un vantaggio sulla vita attesa, ed è giusto poi che ci sia flessibilità, per cui se le donne preferiscono andare prima potranno anche andare prima, una volta in media, voglio dire, una volta stabilita quella finestra di flessibilità, se le donne preferiscono attestarsi sulla fascia bassa delle età ammesse e gli uomini sulla fascia alta, questo sarà una preferenza e un fatto accettabile, ma che invece si sia lo Stato che dice alle donne tu vai in pensione prima e tu vai in pensione dopo e intervenga con tutte queste norme o contentini, non è accettabile. Quindi, per parafrasare un vecchio slogan femminista, non vogliamo più le caramelle, cioè non i contentini, ma... Sì, diciamo che è un paradosso che noi siamo ancora costretti oggi a compensare una disuguaglianza attraverso... Sì, o anche parafrasare le femministe di un tempo, non ha nessun senso, non c'è bisogno di essere femministe, c'è bisogno di pensare che l'uguaglianza delle opportunità è un fatto normale della vita, come dicevo prima, e deve esserlo. Ecco, vedo alcuni messaggi che però dicono, va bene, ammesso che quello fosse un contentino, un elemento riparatore per una disuguaglianza a quel punto certificata, per riconosciuta, se no non hai bisogno di compensare nessuno se non c'è una disuguaglianza precedente, è una disparità precedente, però in questo modo si leva anche la caramella, si leva anche il contentino. E beh, allora qui bisogna andare al mare, alla radice del male, che è esattamente il mercato del lavoro, ed è esattamente il fatto che nel mercato del lavoro le donne continuano a essere discriminate, continuano a non essere guardate con gli stessi occhi con cui sono guardati gli uomini. Questo vale per le giovani generazioni, probabilmente meno che per le generazioni meno giovani, ma comunque è ancora così. Mentre invece le persone vanno prese in base alla loro competenza, al merito, all'impegno che mostrano, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne. E qui deve intervenire, dicevo, quel fatto meccanico della mente, per cui uno non guarda è una donna, è un uomo, ma dice è una persona capace, sa fare questo lavoro, si impegna, è disposta a. E lo stesso vale poi in casa, perché noi abbiamo sempre questa cosa ancora del maschio italiano che sostanzialmente si rifiuta di condividere, oggi molto tutti, meno, anche questo va riconosciuto, ma anche questo non è una cosa naturale, e altri paesi hanno dimostrato che si possono condividere le incombenze familiari molto di più. Personalmente, professoressa, a me piace cucinare e condividere altre incombenze familiari, però sono d'accordo con lei, è chiarito che appunto questa, l'eliminare una disparità significa anche dire o andare verso un'idea che non hai bisogno di nessuna bonus, contentino, caramella, perché ti trattiamo nello stesso modo prima, per cui non c'è bisogno di riparare a nulla. Le chiedo un'ultima cosa, tornando sempre sul tema delle pensioni, un giudizio invece sul 2015, quindi l'aumento lento dell'età pensionabile. L'obiezione che più spesso arriva al 349-238-6666, anche oggi, è vabbè, ma tu Barisoni sei lì col microfono, seduto sulla sedia davanti al computer, fossi un autotrasportatore o una persona che compie un lavoro massacrante, un turnista, un anno di differenza, un anno fa la differenza. Io ricorderei che per esempio sui lavori usuranti c'è sempre stata una disciplina diversa. Certo, e questo è un'annosa questione, è chiaro che non tutti i lavori sono uguali ed è chiaro che alcuni lavori sono molto più faticosi. In Italia abbiamo varie volte provato ad affrontare il tema dei lavori usuranti, però poi per logiche anche un po' corporative, perché alla fine quando arriva il dunque quasi tutti trovano il proprio lavoro usurante e non si riesce mai a fare un elenco, come dire, esaustivo. Ma è chiaro che il principio generale deve essere quello della flessibilità. Esiste una fascia di età all'interno della quale si sceglie. Un po' prima prendi meno, un po' dopo prendi di più. ci sono le eccezioni, in tutte le regole ci sono le eccezioni, anche per questa ci vorranno le eccezioni, bisogna però sbloccarle e bisogna però anche rompere la logica dei veti incrociati per cui uno dice no, la tua non è una professione usurante, la mia sì, e questo è una responsabilità eminentemente sindacale. Sì, poi spesso la professione è usurante per chi ti sta vicino, cioè, però comunque. Grazie alla professoressa Elsa Fornero, in collegamento con noi, docente di economia politica all'Università di Torino, editorialista anche del Sole 24 Ore. Grazie, l'avevo messo. Buon fine settimana. Anche a voi. Spero di aver dato conto di tutte le principali domande che sono arrivate al 349-238-6666. Non capisco invece l'obiezione di chi dice, ma attenzione, se le donne per i conti pubblici però sarebbe un problema, sarà un problema perché le lavoratrici costano più da dipendenti che da pensionate. È veramente un'obiezione incomprensibile sotto ogni profilo. Adesso c'è il metodo e la pubblicità, poi restiamo in tema di Italia e di dipendenti di lavoro, spostandoci però al sud, dove non solo c'è un problema di occupazione femminile, c'è un problema di occupazione tout court. Ieri già abbiamo ricordato complessivamente i dati dello Svimez e quello che oggi molti giornali riprendevano, i 700.000 immigrati dal mezzogiorno tra il 97 e il 2008, però lo vorremmo affrontare in maniera meno ortodossa, perché ne ha scritto oggi su Corriere della Sera l'economista Gianfranco Viesti, dicendo ma in sostanza il divario si è anche ridotto tra sud e nord, i problemi sono altri, vediamo di capire quali. ...17:36 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso sempre di temi sociali ma relative tra economia e società, ma relativi al nostro mezzogiorno. Un paio di risposte brevissime a chi sta scrivendo ancora sul tema dell'innalzamento dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche. Alcuni dicono che le giovani nonne in pensione servono anche a colmare le lacune sociali dello Stato, per esempio aiutando le giovani famiglie che lavorano e hanno figli. D'accordissimo, però voglio dire, se c'è una lacuna non la si può recuperare creando un'altra disparità, piuttosto ci si concentri sulle vere politiche per le famiglie esistenti, non per le famiglie future, non sempre occupandosi insomma solo dei nascituri, ma anche delle famiglie esistenti. Io non ho più sentito parlare del quoziente familiare, per esempio, per pagare le tasse, quindi sulla parte fiscale, né di politiche sugli asili e quant'altro. Per cui, insomma, questi sono i temi. Negli altri paesi così si affronta il tema della maternità per le donne e della natalità in maniera più complessiva. Comunque, professor Gianfranco Viesti, che insegna economia all'Università di Bari ed è un noto studioso dei temi meridionali, buonasera. Buonasera a lei. Allora, lei oggi sul Corriere della Sera, alla luce del rapporto Svimez di ieri in cui emergeva un sud pesantemente in recessione, -3,8%, 700.000 abitanti del nostro mezzogiorno che hanno abbandonato il sud negli ultimi 10 anni, dice ma insomma alla fin fine il divario tra nord e sud si è ridotto in questi anni, quindi il problema è un altro. Per non cadere nel benaltrismo, che personalmente non sopportiamo, qual è il problema allora, mi scusi? Il problema si chiama Italia, è la lentissima crescita del nostro paese e soprattutto la lentissima crescita della produttività del nostro paese, e quindi salari fermi, profitti insufficienti per investire in innovazione, quote di mercato che flettono. Questo problema ce l'avevamo prima della grande crisi finanziaria internazionale e ho paura che potremo ritrovarcelo all'uscita dalla crisi e quindi uscirne piano piano piano, tutti quanti, nord e sud. Lei poi fa dei calcoli, dice che il governo ha finanziato a novembre 2008 tutte le misure eccezionali per la crisi togliendo i soldi al sud. Questa è una protesta che arriva anche da molti governatori del mezzogiorno, delle regioni meridionali. 18 miliardi, 20 miliardi se si aggiungono anche i soldi per l'Abruzzo. Però io qui ricordo un vecchio approccio, insomma vecchio ma non per questo desueto economico, che dice beh, se si continuano a dare i soldi al sud, il sud non decollerà mai, e per cui meno risorse pubbliche significa anche meno assistenzialismo. Beh, mi pare una grandissima sciocchezza, perché qui stiamo parlando di investimenti pubblici principalmente, quindi di scuole, ospedali, strade, ferrovie, porti, e cioè di tutto quello che in tutto il mondo serve a sviluppare la crescita economica, a creare imprese che stiano sul mercato e posti di lavoro. Stiamo parlando di spesa per investimenti, cioè di quella che serve al nostro paese. Quello che è successo è che da maggio, cioè dall'inizio, da quando si è insediato, dal maggio dell'anno scorso, il governo ha finanziato tutto, non solo le misure contro la crisi, perché il governo è partito col taglio dell'ICI per le fasce più abbienti, principalmente spesa corrente, in parte assistenzialistica, i 500 milioni di euro al Comune di Roma per il buco di bilancio, cancellando spesa per investimenti. Anche al Comune di Catania, professore. Anche al Comune di Catania, Comune di Roma e Comune di Catania. Diciamo, il passaggio da spesa per investimenti anche alle ferrovie, anche alla privatizzazione di Tirrenia, anche alle quote latte, diciamo tutto quello che ha fatto il governo ha preso i fondi dagli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Questo è un fatto, il fatto interessante è che una scelta così rilevante di politica economica non sia al centro della discussione, dopodiché uno può essere anche a favore naturalmente, però è la prima volta che in Italia si vede un governo così nettamente schierato, diciamo, contro una parte del paese. Tenga conto poi che, come sempre in economia, diciamo, gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno non servono ai meridionali, diciamo, il Brennero non è una questione degli altoatesini, è una questione di tutta Italia per andare sui mercati centroeuropei. Taranto non è una questione degli ionici, è il grande porto container da cui possono partire le nostre merci per gli Stati Uniti e l'Asia. Sì, lei però, se ho ben capito, dice il governo Prodi è stato molto distratto, il governo Berlusconi si è disinteressato. Allora, visto che anche lei riconosce che non è che nel governo precedente, non voglio fare tutto un fascio, però insomma, non venivamo da un periodo di grandi investimenti al sud improvvisamente tagliati, le chiedo, secondo lei, come mai due governi di due colori diversi, con partiti molto diversi al loro interno, però di fatto, in maniera un po' diversa forse, ma insomma di fatto si distraggono nei confronti o si disinteressano del Mezzogiorno. Beh, adesso però, senza diciamo prendere posizione parte, ma restando ai fatti oggettivi, diciamo c'è una enorme differenza di scala, e cioè il governo Prodi non ha fatto particolari investimenti politici né tecnici sulla qualità degli interventi, su quello che si faceva, non ha posto il problema al centro. Il governo attuale ha preso 22-24 miliardi di euro, cioè tutte le risorse nazionali disponibili di qui a 10 anni, e le ha tolte. Mi sembra una scala diversa. Senta un tema interessante. L'Abruzzo si ricostruisce, giusto. Tutto il paese deve essere solidale, giusto. Chiedo ai suoi ascoltatori, perché tutta la ricostruzione dell'Abruzzo devono pagarla solo le altre 7 regioni del sud attraverso i fondi FAS? Perché questo è quello che ha fatto il governo. Diciamo, il resto d'Italia, nel non poter contribuire alla ricostruzione dell'Abruzzo, non pensa che ci sia qualcosa di sbagliato? Io la domanda la giro, la risposta mia è ovvia, ma la giro anche agli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666. C'è un altro aspetto però forse più concettuale. Io non volevo dire che i due governi fossero uguali, non lo sono, però che forse sullo sfondo si sente una minor tensione in quella che una volta, dai tempi di Salvemini, di Giustino Fortunato, di Pasquale Villari, veniva chiamata la questione meridionale. Ci si è stufati forse anche della questione meridionale, perché è una questione che resta aperta per 50 anni e diventa cristallizzata, non è più una questione. Però sullo sfondo forse è l'idea che si possa fare poco, che devono essere gli stessi abitanti di quelle aree a pensarci, che non ci sia, che tutte le varie strade siano state intraprese in questi anni. E così mi ricollego anche al dato che ha fatto più impressione, questi 700.000 abitanti del Mezzogiorno che si sono trasferiti in altre regioni? Beh, quelli sono però dei flussi lordi, e quindi ce ne sono poi almeno più di una metà che vanno da altre parti. Diciamo, il flusso di emigrazione dalla Germania est all'ovest è una volta e mezzo di dimensione, e quindi diciamo sono fenomeni abbastanza interessanti che avvengono in diversi paesi europei, anche in Grecia, in Spagna ci sono migrazioni interne molto forti. Ma non sfuggiamo al punto principale: non c'è dubbio che gli italiani si sono stufati della questione meridionale. Io ho provato a scrivere un libricino che parte esattamente da questo punto, e non c'è dubbio che spetti principalmente ai meridionali darsi da fare, non c'è dubbio. Di che cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di una ripartizione territoriale degli investimenti pubblici, o se parliamo di federalismo fiscale, della spesa corrente per scuola, sanità e assistenza, che sia equa nel Paese. È di questo che stiamo parlando, non stiamo parlando di nessun flusso addizionale assistenziale di risorse. È interessante forse per gli ascoltatori sapere che la spesa pubblica corrente, non più investimenti, corrente pro capite nel Mezzogiorno è circa il 20% più bassa che nella media italiana. La regione italiana che ha meno dipendenti pubblici, comuni, province e regioni rispetto alla popolazione è la Puglia. Cosa voglio dire? Voglio dire, se grattiamo un po' via un po' di sentito dire e proviamo a far riappassionare i suoi ascoltatori, i nostri ascoltatori e gli italiani a questo tema, scopriamo che alcune verità sono indiscutibili, pensi ai rifiuti di Napoli, ma che ci sono tanti aspetti interessanti e che il mondo non è mai tutto bianco o tutto nero e soprattutto che il Sud è un pezzo debole di un paese debole e che condivide col resto del paese non pochi problemi. Grazie perché con il professor Viesti, il nostro ospite, già nel passato si possono condividere le tesi, non condividere, ma sicuramente si esce dai luoghi comuni e dal facile detto, così, dalle facili idee all'ammasso. Grazie a Gianfranco Viesti. Di nuovo in diretta per l'ultima parte del programma. Allora, vedo molti ascoltatori che criticano le parole di Viesti. Ci mancherebbe, tutte le opinioni sono possibili. Diciamo, il messaggio più comune è: ma insomma, con tutti i soldi che in questi decenni si sono dati al Sud, non si può dire che adesso è il Sud che deve pagare l'Abruzzo, anche se tecnicamente lo devo dire così, non c'è nessun dubbio. Lo dicono gli stessi governatori del Mezzogiorno, che buona parte dei soldi utilizzati dal governo erano soldi destinati al Sud. Io però dico una cosa, ascoltiamo tutte le idee, questo programma non si ascolta per avere delle conferme di quanto già si stava pensando, magari per avere qualche stimolo, poi uno resta della sua idea, ma insomma, no? Altrimenti meglio la musica. La borsa, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, più 0,26%, più 0,4% Francoforte, più 0,6% Parigi, più 0,80% Londra. L'America adesso è invariata, giornata piatta per fortuna, priva di grossi stimoli, in cui comunque le borse portano a casa una settimana alla fine positiva. Cioè, chi temeva il grosso, la vendita, il fly to quality, fly to holiday, è andato deluso. Atlantia più 2,3, Prismian più 2,2, Fondiaria più 2, Banca Monte dei Paschi più 1,7 come A2A, l'1,2 lo guadagna Terna, ma anche Autogrill, 1,2 Fiat, Geox più 1%, Tenaris più 0,80 come Italcementi e Buzzi Unicem, Bulgari più 0,6 come Generali e Impregilo la Popolare di Milano. Chi perde? Campari meno 1,4, Mediolanum meno 1,3, CIR meno 0,7 come il Banco Popolare, Finmeccanica meno 0,6, Mediaset meno 0,5%, ma non vedo grandissimi spunti, direi Atlantia, Prismian da un lato e Campari, Mediolanum dall'altro. Sì, infatti, come hai detto tu, è una borsa dove non ci sono grandi temi, grandi spunti, molti movimenti tecnici. Di sicuro, semmai in generale, va detto che sono andate bene le azioni delle banche, sull'onda anche dei dati di Citigroup e di Bank of America che sono stati pubblicati proprio quest'oggi prima dell'apertura di Wall Street. Anche a Piazza Affari sono andate bene, hanno dato sostegno al listino, fatta eccezione di Intesa San Paolo che ha lasciato sul parterre lo 0,3%, quanto la banca è esposta nei confronti di risanamento ed è di ieri la notizia che la Procura di Milano ha chiesto il fallimento della società. E ne parleremo tra un attimo. Per quello che riguarda notizie di mercato in senso stretto, sale Pirelli Real Estate, indiscrezioni oggi su un quotidiano per quello che riguarda trattative per quote di minoranza del gruppo. Banca Italease di nuovo più 26,7%, qui c'è la vicenda del fallito del listing, ossia si cercava di levare dalla borsa ma non si è raggiunta la soglia necessaria. Esatto. Esatto, le adesioni all'OPA sono state pari all'88%, o meno del 90%, quindi sperato invece dal Banco Popolare. Banco Popolare che, tra parentesi, è stato uno dei pochi titoli in retromarcia, ha perso lo 0,68%, ma era andato molto bene a inizio settimana. Le Italise, la borsa continua a scommettere che possa essere rivisto il prezzo dell'OPA rispetto a 1,5 euro, l'ultimo prezzo è stato di 2,76 euro, d'altra parte va detto che proprio ieri dal Banco Popolare è stato precisato che non c'è possibilità che il prezzo di Italise stabilito per l'OPA sia modificato. La borsa tuttavia ci spera, e comunque i movimenti in questo caso sono facili, visto che, ricordiamo, in borsa circolano un numero abbastanza esiguo di azioni, il flottante è pari al 12%. Allora, grazie, buon fine settimana Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. Passiamo, restiamo in tema di borsa, ma ci occupiamo, come annunciato, di risanamento. Di risanamento, non è un gioco di parole, stiamo parlando infatti della società immobiliare quotata in borsa, sospesa chiaramente oggi, che fa capo a Luigi Zunino. Eh sì, uno dei vari immobiliaristi, quelli famosi, 2 o 3 anni fa, Luigi Zunino, opera dagli anni 80 nel settore immobiliare, ha il 73% di Risanamento S.p.A., il 19% impegno a Intesa San Paolo e oltre 26 Unicredito di questo pacchetto, e l'altro 23% sul mercato. Portafoglio immobiliare di circa 2 milioni e mezzo di metri quadri, valore di circa 5 miliardi di euro. Maggior parte delle proprietà tra Milano e Parigi, a Milano l'operazione Santa Giulia è quella più conosciuta. Che cosa è successo? Perché la Procura di Milano ha chiesto il fallimento di Risanamento, sembra veramente un ossimoro, e l'udienza è fissata per il prossimo 29 luglio, titolo sospeso immagino anche lunedì prossimo. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, chiedo conferma, buonasera. Sì, buonasera a voi. Sì, il titolo rimarrà sospeso anche il prossimo lunedì, e che c'è chi pensa anche che continuerà a rimanere sospeso fino a quando non si terrà l'udienza del 29 luglio prossimo. Come hai detto giustamente tu, a sorpresa il PM Roberto Pellicano ha deciso di chiedere ai giudici di Milano l'istanza di fallimento per Risanamento. È una decisione che è maturata a seguito di 3 diverse segnalazioni che sono avvenute in altrettanti processi civili e penali. Uno in particolare è quello che probabilmente ha fatto scatenare l'intero meccanismo, ossia quello che coinvolge Banca Italease, il processo penale appunto nei confronti di Banca Italease, che vanta circa 4 miliardi di crediti incagliati, cioè crediti che risultano difficilmente esigibili. Buona parte di questi crediti sono leasing immobiliari, di cui in parte fanno capo a Risanamento. Proprio nel corso di questo procedimento, quindi, è emersa la difficoltà di Banca Italease a recuperare il credito che c'è nei confronti di Risanamento, e da qui è scattata la prima segnalazione. Va peraltro ricordato che il PM Roberto Pellicano è lo stesso che sta seguendo anche la vicenda di Banca Italease. Sì, devo dire che il verminaio che è stato Banca Italease contagia un po' tutti, perché è chiaro che questi 4 miliardi di prestiti concessi a Risanamento evidentemente sono stati concessi anche in maniera così, un po' forse leggera, ma dentro Banca Italease c'era di tutto, quindi è una vera matassa. Che cosa potrebbe capitare a questo punto agli immobili? Dunque, la parte degli immobili relativa a Risanamento, l'intenzione della società è quella di mantenerla in portafoglio, perché allo stato è, come dire, il gioiello da non svendere. Ovviamente gli immobili sono iscritti a bilancio a prezzi decisamente differenti rispetto a quelli che si potrebbero spuntare adesso andando a valorizzare gli asset, e di conseguenza l'obiettivo è mantenerli in portafoglio il più possibile per poter poi venderli quando il mercato immobiliare si sarà ripreso. Questa è l'intenzione della società, da vedere se poi sarà possibile effettivamente portare a termine questo obiettivo, raggiungere questo obiettivo. l'altra soluzione è ovviamente cercare altro supporto dalle banche e indubbiamente nell'udienza del 29 luglio prossimo il ruolo delle banche sarà fondamentale. Sì, anche perché sono molto esposte, appunto, hanno impegno 19% Intesa San Paolo e 26% Unicredito hanno impegno queste quote di risanamento. 29 luglio quindi la prossima data, grazie anche a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia nella prima settimana in versione estiva, quindi dalle 17 fino alle 18. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, a Valeria Berardi per l'assistenza in regia, non ce la farò mai Bernardi, e poi un auguro di buon fine settimana a voi tutti in ascolto. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.